accompagnerà. Questo riprendere il cammino mi regala brevidi e vertigine, muscoli grevi, tesi e laceri ridanno forma al corpo mio. Suoi fremiti, il caldo umido e foschia, questo giardino rumoroso mi